e vogliamo continuare nello studio e nella riflessione della lettera dei Filippesi. A quanti sta piacendo questa lettera? È bellissima ed è sempre più bella. Tra l'altro, ora entriamo in quello che per molti è il capitolo preferito della lettera dei Filippesi, ovvero Filippesi 2. Oggi cominciamo questo nuovo capitolo ed è bellissimo. Lo vogliamo leggere insieme? Lo trovate proprio scritto nelle note, proiettato sullo schermo, quindi non può sfuggirvi. Dice così: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Amen, bellissimo, no? Siete entusiasti? Lo volete leggere con me? Lo leggiamo insieme? Perché lo dichiariamo anche per la nostra Chiesa. Questo è proprio un vademecum, un riferimento per ciò che è una Chiesa sana. Questo è ciò che è una Chiesa sana, questo è ciò che è un credente maturo. E quindi leggiamolo insieme. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, un medesimo amore, essendo di un animo solo, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno abbiamo letto, io prego che lo possiamo far nostro questo. L'abbiamo letto, lo mediteremo insieme, ma la mia preghiera più grande è che possiamo far nostre queste parole, perché un conto è sapere, un conto è leggere, un conto è conoscere, un altro conto è vivere. Il Signore vuole che noi viviamo la parola, che non solo l'ascoltiamo. Ora, ci sono tre caratteristiche di cui questi versi ci parlano e sono molto lampanti: l'amore, l'unità e l'umiltà. Potete scriverlo: amore, umiltà, unità e umiltà. Sono uno legato all'altro, l'uno va di conseguenza all'altro. E il primo è l'amore, e io mi soffermerei sull'amore. Parleremo quindi di amore, di unità e un pochino di umiltà, perché non perché vogliamo essere poco umili, ma perché domenica prossima ci sarà un messaggio totalmente incentrato sull'umiltà, perché poi i versi vanno avanti, incalzano su questa tematica, offrendoci proprio l'esempio di Cristo. Ed è Cristo l'esempio che la Chiesa è chiamata a seguire. Quindi quando parliamo di umiltà, quando parliamo di unità, quando parliamo di amore, stiamo parlando di Cristo e stiamo parlando di assimilare quello che è il suo esempio nelle nostre vite. Amore, il primo punto. Il primo punto che voi trovate nei vostri appunti è in realtà un verso biblico, però questo verso biblico non poteva esplicare meglio quello che è proprio il primissimo aspetto che vorrei considerare con voi, perché Giovanni 1:19 dice nello specifico che noi amiamo perché... Chi è che lo conosce questo verso? Noi amiamo perché, oggi impareremo un verso a memoria, vi va? Molto breve, ce lo portiamo a casa. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Vogliamo ripeterlo insieme? Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. ancora una volta, dobbiamo memorizzarlo, quindi adesso è ancora proiettato, mi sa, giusto? Facile così, facile così. Fra un po' lo togliamo dallo schermo e lo dobbiamo sapere a memoria questo verso. Ripetiamo ancora insieme: noi amiamo perché Egli ci ha amati. Ancora una volta, noi amiamo perché Egli, senza la proiezione, noi amiamo. Ancora una volta, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Noi siamo in grado di amare, noi possiamo amare, noi possiamo vivere l'amore, offrire amore perché siamo amati. Perché c'è qualcuno che ci ha amati per primo, e questo qualcuno è Cristo Gesù. Se siamo qui in una comunione d'amore, perché questa è la Chiesa, è un assembramento di persone che vengono da storie tutte diverse, modi di fare diversi, culture diverse, atteggiamenti e caratteri diversi, e rimane straordinariamente, soprannaturalmente unita questa comunità, perché c'è un amore soprannaturale che vive in noi. E la Chiesa deve essere impegnata a guardare all'amore che genera amore per vivere l'amore. Non puoi vivere l'amore quale sforzo personale, come se l'amore partisse da te. Lo stesso Giovanni dice: in questo è l'amore, non che voi avete amati, ma Cristo ci ha amati. Cioè, Giovanni lo dice, voi non siete in grado di amare, noi non siamo in grado di amare, Gesù ci ha amati e lui ha innescato questo effetto a catena che rimane vigoroso nelle nostre vite fin quando noi siamo concentrati e lasciamo che la fonte di amore sia sempre ben visibile nelle nostre vite. Se perdi di vista Cristo, se perdi di vista la sua grazia, se perdi di vista il suo amore, il tuo amore comincia a diventare arido, secco, umano e quindi sterile, senza frutto e non un vero amore. Il vero amore è in Dio e il vero amore è un amore di grazia, non è il baratto, do perché ricevo. Questo è l'amore di cui tutti sanno amare. L'amore che ricambia, il favore, perché tu mi stai simpatico, anch'io sarò simpatico per te, fin quando mi sarai simpatico, e quando diventerai antipatico io ti escluderò dalla mia vita. Perché? Perché l'amore funziona in base a un baratto, a uno scambio egoistico. Questo è quello che vive il mondo che ci circonda, ma noi siamo tirati fuori da questo meccanismo e inseriti in un meccanismo di grazia. E sapete dove, qual è la lettera? Vi ricordate la lettera dove ci viene presentata meravigliosamente la grazia di Dio? Aiutatemi. Efesini, qualcuno l'ha detto. Capitolo 2. Efesini capitolo 2. Questa è una lettera che abbiamo fatto, evidentemente dobbiamo rifare come serie e rinfrescarci la memoria. La lettera degli Efesini, brevemente vi dico un po' un aspetto dello schema di questa lettera che forse non avete notato. La lettera degli Efesini comincia con l'apostolo Paolo che scrive tutte le benedizioni che noi godiamo. Quanto Dio è meraviglioso, quanto Cristo è eccelso, quale meraviglioso dono abbiamo avuto predestinati da Dio, da eternità passate. E poi l'apostolo Paolo, dopo aver descritto questa cosa nel primo capitolo, si ferma in una preghiera e prega e scrive la preghiera. E scrive la preghiera e dice: io prego affinché i vostri cuori siano illuminati, affinché gli occhi del vostri cuori si possano aprire a comprendere queste cose. Perché io credo che l'apostolo Paolo scriveva, e nel momento in cui era ispirato dallo Spirito Santo a scrivere queste cose eccelse, al tempo stesso si rendeva conto che erano cose così tanto alte che le persone non potevano, gli Efesini non potevano comprenderle in una maniera umana. Ci doveva essere qualcosa di spirituale, ci doveva essere una rivelazione, quindi si ferma dallo scrivere per pregare e prega: Signore, fa che loro possano, come che i loro cuori siano illuminati, che loro possano comprendere quello che tu mi stai rivelando e che io sto loro trasmettendo. E poi va avanti, dopo quella prima preghiera, e va avanti e descrive la grazia. Non siete salvati per opere, Siete salvati per grazia, non viene da voi, è il dono di Dio. E va avanti dicendo quale meraviglioso miracolo è accaduto su quella croce dove i due popoli sono stati uniti in un unico vincolo di appartenenza e non siamo più stranieri, ospiti, siamo concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio per la grazia di Cristo Gesù. E poi che cosa fa l'apostolo Paolo? Si ferma di nuovo e prega. E prega e scrive questa preghiera. Perché di nuovo si rende conto, a mio parere, che quello che sta scrivendo è di nuovo troppo, troppo elevato per essere compreso solo a livello conoscitivo. E quindi si ferma e fa questa eccellente preghiera. E noi comprendiamo che è una preghiera molto importante, fra le più importanti che ci vengono riportate nella Bibbia, perché in questa preghiera dice io mi inginocchio. Io mi inginocchio davanti al Padre, dal quale ogni famiglia prende nome, e fa questa preghiera eccelsa. Io ora, per non addentrarmi troppo negli Efesini, perché dobbiamo parlare dei Filippesi, ho ridotto la preghiera a qualcosa che mi sta a cuore, che stiamo analizzando insieme, ovvero l'amore di Cristo. L'apostolo Paolo scrive così la preghiera e dice: piego le ginocchia davanti al Padre, poi va avanti e dice affinché siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Vedete perché prega? Perché si rende conto che loro possano conoscere questo amore che non si può conoscere. Che possano essere in grado di abbracciare un amore che non è smisurato. È per questo che l'apostolo Paolo prega, perché l'amore di Cristo, ed è qui che arrivo col mio punto, non è un amore che puoi vedere a distanza, leggere, comprendere, sì Gesù è morto, ha pagato i miei peccati, io sono stato lavato, io ho l'eredità della vita eterna. No, l'amore di Cristo che viene descritto in questa preghiera è un amore tridimensionale. È un amore che non vedi in due dimensioni, esternamente. È un amore nel quale tu ti addentri. È un amore che sperimenti. E se non lo sperimenti, non lo puoi neanche descrivere. E lo sappiamo bene, quell'amore che non possiamo descrivere. Quando conosci Cristo veramente, lo sai perché sperimenti questo amore che è avvolgente. È tridimensionale. Ti abbraccia tutto. Io ho mia figlia, Ioanna, e Ioanna è un esserino ramollito, senza forze, senza la capacità ancora di abbracciare il papà. Vorrei, no? Un giorno, mi aspetto che un giorno... Cioè, non scherza, le sue forze, però è così fragile. E l'abbraccio però che io vivo con Ioanna è uno dei più belli, perché è l'abbraccio che io offro a lei. Ed è un abbraccio che mi fa pensare all'abbraccio che il Padre Celeste offre a ciascuno di noi. Non è l'abbraccio fra due persone adulte. L'abbraccio fra due persone adulte è un abbraccio, no, scambiato tra due corpi che si incontrano. L'abbraccio con Ioanna, vi faccio vedere una foto di me e Ioanna, è un abbraccio dove lei... Ma devo stare attenta a non distrarmi, no, perché... Ogni volta che la vedo, incredibile, ogni volta che la vedo mi rinnamoro di lei. È lì in fondo, adesso vedete, nella stessa posizione mia moglie, che l'abbraccia. E questo abbraccio è tridimensionale perché la prende tutta, è letteralmente, ora ha già un mese, ma i primi giorni potevi proprio avvolgerla completamente, in ogni suo lato, in ogni sua parte. Questo è l'amore di cui l'apostolo Paolo sta pregando per gli Efesini, che possano comprendere che questo amore è avvolgente, è completo, non scarta alcune parti di noi. Noi scartiamo alcune parti di noi, diciamo questa cosa non mi piace di me, e crediamo che anche a Dio non piaccia una parte di noi. Eppure nella sua immensa grazia lui ci avvolge e copre ogni parte bella e brutta, che è gradevole e che lui disprezza nel nostro pensiero, perché è la grazia che copre tutto. copre tutto e ci dà quella forza di essere in una posizione che altrimenti noi non potremmo mai stare. È Dio che ci eleva, come io elevo Ioanna in una posizione che lei non potrebbe mai assumere. Così Dio ci eleva in questa grazia. Noi possiamo amare perché Egli ci ha amati per primo. È il suo amore, un amore di grazia ed è meraviglioso. Nel 2006 io ho fatto un viaggio che non dimenticherò mai, in una delle isole più sperdute del pianeta, letteralmente, in Papua Nuova Guinea. E questa è una nazione al nord dell'Australia, è un'isola già di suo molto molto sperduta. Pensate che fino a qualche decennio fa era l'unico posto nel mondo dove le tribù ancora applicavano cannibalismo, quindi stiamo parlando di un posto proprio estremamente remoto, e ho visitato delle tribù lì remote che erano state anche poi convertite al cristianesimo. Una bellissima esperienza. E poi un giorno io ricordo che un missionario ha detto: vi voglio portare a vivere un'esperienza avventurosa, straordinaria. Io dicevo: ma è già tutto più avventuroso di così, più straordinario. Vi porto in un'isola. E lì io mi sono: ma non siamo già in un'isola? No, vi porto in un'isola dell'isola. E quindi dall'avventura e dall'entusiasmo è cominciata a nascere un po' la paura e l'apprensione, no? Perché comincio a pensare: quanto distanti siamo dal migliore ospedale civile che ci possa essere? E quindi l'apprensione aumentava, soprattutto vedendo che la barca si allontanava da quest'isola per raggiungere un'isola sperduta, disabitata, priva di tribù, di persone, ed eravamo lì per una ragione specifica: immergerci nell'acqua e sperimentare la barriera corallina. Ed è un'esperienza che io non posso descrivervi, ovviamente, ma le mie parole non riusciranno mai a farvi vivere quello che io ho vissuto. È un'esperienza unica, perché non è il mare di Palese Santo Spirito, dove tu entri e vedi che non hanno lasciato più nulla, perché tutto quello che c'è da prendere è già sulle bancarelle. Non ci sono ricci, non c'è vita, se ne trovi una ti entusiasmi. Nella barriera corallina è tutto un pullulare di vita, colori. Pensate che io quando ho messo, e non devi fare un'immersione da subacqueo, non devi arrivare chi lo sa quale, no, basta immergerti a pochi metri. Pensate un po' che io quando, io reduce dell'esperienza dell'Adriatico, ho messo la mia maschera e mi sono immerso, già pensando a quello che mi aspettava, no? E quando mi sono immerso, letteralmente, sapete cosa ho fatto? Mi sono tolto dall'acqua, sono uscito un attimino, ho tolto la maschera e ho riflettuto. Ho detto: ma è vero quello che ho appena visto? Ma che cosa è successo? E quindi poi ho ripreso coraggio e ho messo la maschera. Perché è un'esperienza straordinaria, in quanto tu ti immergi e hai vita ovunque. I pesci non hanno paura, ti avvolgono, sono di tutti i colori più disparati. Vedi queste pareti immense, profonde, che vanno negli abissi e continuano ad essere colorate. Vi faccio vedere qualche foto di qualche barriera corallina. Vedete, ma non rende l'idea, perché è piatto, questo è in due dimensioni. Immagina di immergerti e di avere tutto attorno a te questo. Tra l'altro, in quell'occasione io ho visto degli squali, ragazzi. E sì, sono ancora qui in mezzo a voi. Soprattutto perché sono rimasto a riva praticamente, non mi sono allontanato ulteriormente. Ma vedete i colori, la vita? E immaginate di vivere tutto questo, tutto attorno, tutto questo. Io sto cercando di mostrarvelo, di dare parole e arricchire per farvi comprendere che l'amore di Dio è tridimensionale così, è qualcosa che tu vivi e sperimenti a 360 gradi. Come puoi vivere questo amore? Non puoi limitarti a leggerlo. Non puoi limitarti a conoscerlo. Non ci saranno prediche a sufficienza che puoi ascoltare per comprenderlo e afferrarlo. Lo devi vivere. Lo devi vivere. E per viverlo lo devi chiedere. E ti devi unire alla preghiera di Paolo e dire: se lui ha pregato per me, perché letteralmente l'Apostolo Paolo non prega per gli Efesini solamente, ma dice affinché siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, in altri termini, con tutti i credenti di tutte le epoche, nei secoli e nei millenni. E noi possiamo unirci a questo gruppo di persone straordinarie che hanno vissuto l'amore. E come lo possiamo fare? Unendoci a questa preghiera, tornando a casa oggi, dicendo: Signore, io forse non ho ancora vissuto la pienezza di questo amore. Mi dai la possibilità di viverlo, ne ho bisogno, sono arido, ho bisogno del tuo abbraccio avvolgente. E lo devi chiedere, lo devi cercare, lo devi supplicare a volte e ti devi immergere. Non può essere un'esperienza che si riduce la preghiera prima del pranzo, perché quello è l'amore religioso che una persona può avere nei confronti riverenti di un Dio che sa che esiste. Ma un conto è vivere Dio in una maniera religiosa, un altro conto è vivere il suo abbraccio e la relazione intima alla quale Lui ci invita. Amen. Siamo qui per celebrare la cena del Signore, perché Gesù ha voluto in una qualche maniera lasciarci anche dei simboli per renderci potete mangiare. Lo potete sentire nel vostro palato e potete avvicinarvi di più a quella che è l'essenza del mio sacrificio e del mio amore per voi. E da millenni la Chiesa continua a mangiare pane e a bere vino. Mangiare pane e bere vino. Per fare cosa? Per ricordarsi, per immedesimarsi, per avere qualcosa anche di tangibile, qualcosa che ti entra nello stomaco, perché l'amore di Cristo Gesù è profondo. Parte da dentro. E va molto a fondo ed è lungo, abbraccia tutto quello che viene prima, è lungo e abbraccia tutto quello che viene dopo. Se vuoi far tuo l'amore di Cristo, non puoi limitarti a cosa hai da darmi oggi, Gesù. Devi poter pensare a tutti i tuoi peccati passati, a quello che meriteresti fin dal fallimento di Adamo ed Eva. E comprendere che cosa Cristo ha fatto 2000 anni fa e a cosa Lui ti ha destinato per l'eternità. E lì cominci a prendere la lunghezza di questo amore e a cantare: grande sei, Signore, grande sei tu, un giorno tornerai e potrò vivere la pienezza delle tue promesse che valgono per l'eternità. E oggi puoi assimilare questo amore nella sua lunghezza, nella sua profondità, nella sua larghezza, nella sua altezza. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare per la cena, vorrei viverla ora con voi e poi andremo avanti negli ultimi punti, vi prometto che sarò breve, però ha senso a questo punto fare mente locale sull'amore di Cristo e viverlo insieme attraverso la celebrazione della cena. Vorrei che chiudessimo i nostri occhi, vorrei dare modo a chi questa mattina riconosce che ha bisogno dell'amore di Cristo Gesù. Forse sei venuto qui in questo luogo carico di colpe, di peccati, ti senti così distante da Dio, distante dall'esperienza avvolgente del suo abbraccio. Gesù ha raccontato una storia di un ragazzo che si è allontanato dal padre, ha sperperato l'eredità e si è ritrovato nella miseria. Forse questa mattina ti ritrovi misero, povero e distante dall'amore del Padre. Però Gesù racconta che questo ragazzo a un certo punto è rientrato in sé e si è reso conto che poteva ritornare al Padre e beneficiare di ogni benedizione che c'era nel suo amore, nella sua casa. E forse il Signore ti ha portato in questo luogo questa mattina proprio per questo, per dirti: io ci sono, io ti voglio abbracciare, io voglio portare la tua vita ad essere riorientata, non a elemosinare gioia, ma a vivere la gioia, non a elemosinare benedizione e soddisfazione. Ti senti povero, abbandonato e solo, il Signore ti dice: no, vieni, perché io voglio abbracciarti. Gesù, nel raccontare quella storia, dice che quando il padre ha visto il ragazzo che stava per tornare a casa, gli è corso incontro e lo ha abbracciato e lo ha baciato e ribaciato. Questo è l'amore del Padre per te questa mattina. Io voglio pregare per chiunque questa mattina vuole ricevere questo amore, vuole il perdono dei propri peccati e vuole riconciliarsi a Dio. Mentre manteniamo i nostri occhi chiusi, se tu sei quella persona, ti chiedo di alzare la tua mano. Dio vedrà la tua mano, il tuo gesto, e io pregherò per te, per chiunque ha bisogno di preghiera questa mattina. Grazie. Vedo diverse mani che si stanno alzando. Grazie. Grazie, alleluia, alleluia. Grazie Gesù. Vuoi offrire il tuo abbraccio ai tuoi figli, il perdono dei peccati. Vuoi tu lavare da ogni macchia? Vuoi tu farli sentire accolti in questo momento, amati, abbracciati in ogni loro parte? Vuoi tu far sentire loro che ci sei per loro, per guidarli in un percorso di vita nuovo, diverso? Non più soli, non più nella miseria, nella povertà alla quale il maligno vuole portarli, ma con te, nella ricchezza della tua casa. Io benedico queste persone, chiunque ha alzato la mano, chiunque da casa, in questo momento sente per sé questa preghiera, vuoi tu raggiungere ogni cuore, ogni anima e salvare in questo momento, Signore, in ogni parte della nazione. Nel nome di Gesù io prego salvezza, redenzione, un nuovo inizio e l'esperienza di un amore completo, tridimensionale. Prego anche per il pane, per il vino, e prego che questa mattina per tutti noi mangiare quel pane e bere quel vino possa essere un'esperienza nuova, fresca, non la ripetizione di qualcosa già vissuto, ma la consapevolezza di quanto pesante, quanto costoso sia stato quel sacrificio che oggi ci porta a poter mangiare di questo pane, bere di questo vino e riconoscere che è per noi, che siamo perdonati in virtù di quello che tu hai fatto, Gesù. Ti diamo gloria ed onore e ti preghiamo di ministrare in questo tempo e di far scendere tu stesso il tuo amore in noi. Nel nome di Gesù prego. Amen. Amen. Se sei battezzato da adulto e sai che cosa significa prendere quel pane, quel vino, allora puoi avvicinarti ai tavolini e possiamo celebrare insieme questa cena. Vorrei rileggere i passi che abbiamo letto finora. Filippesi 2, dall'1 al 4. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 1 Giovanni 4,19. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Efesini 3, dal 14 al 19. Piego le ginocchia davanti al Padre, affinché siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Amen. Amen. Nella seconda pagina dei nostri appunti troviamo un elenco di cose pratiche che in questi versi ci vengono presentate. Di che cos'è l'amore nella pratica? E l'amore nella pratica lo troviamo proprio nei versi che ho letto e ho riletto con voi. L'amore nella pratica è consolazione. L'amore nella pratica è conforto. Potete scrivere queste cose. L'amore nella pratica è consolazione, conforto. E partirei da queste due parole, perché, vedete, è vero, ci troviamo nel secondo capitolo dei Filippesi. Ci troviamo in quella che sembra una nuova tematica, ma l'Apostolo Paolo non ha mai diviso Filippesi in capitoli e versi. E quello che lui sta dicendo ora è una diretta conseguenza di quello che ha appena detto, di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. E domenica scorsa noi sappiamo che abbiamo letto e meditato sul fatto che l'Apostolo Paolo parla della sofferenza, la sofferenza dei credenti. E quindi qui si lega per dire la sofferenza, esattamente come ci veniva presentato da Vito, e se non avete ascoltato quel messaggio, andate su YouTube, andate ad ascoltare. Vito ha presentato un'equazione, una formula matematica, che ci mostra che la sofferenza per i credenti è alleviata nella misura del conforto, della consolazione che sta nelle preghiere dei santi, dei fratelli e delle sorelle. Quanto più noi preghiamo gli uni per gli altri, più alleggeriamo il peso gli uni degli altri. E non solo perché Dio opera e risponde alle nostre preghiere, e Lui lo fa, ma anche perché proprio questo ci unisce nella fede e nel combattimento contro colui che ci vuole smantellare la cosa nostra più preziosa, che è la fede in Cristo Gesù. La mia fede vacilla, la tua fede vacilla nei momenti difficili. La mia fede vacilla nei momenti di sofferenza, la tua fede vacilla nei momenti di sofferenza, ed è lì che dobbiamo unirci e confortarci, non lasciarci andare, grogiolarci nel dolore e nella sofferenza, ma reagire. E tu che sei forte puoi confortare, puoi consolare chi è debole. Permettetemi di ripresentare Ioanna come esempio. Ora mi sentirete parlare spesso di Ioanna, però quando lei ha una colichetta, io non posso toglierle il dolore della colichetta. Io vorrei togliere, io vorrei entrare nello stomaco, mettere a posto tutto, far uscire quello che deve uscire da una parte piuttosto che dall'altra, perché c'è molta confusione a volte nello stomaco di Ioanna su dove deve uscire ciò che deve uscire, ciò che è entrato. E quindi io vorrei mettere ordine, vorrei far passare il dolore, ma non lo posso fare. Quello che posso fare è consolare mia figlia e dirle: io ci sono. Immaginate se mia figlia Ioanna cominciasse ad urlare, no? Lo conoscete il pianto dei neonati? Non provo neanche ad imitarlo, ma si fa sentire. Infatti io credo che ci hanno amati fino a poco fa nel condominio, ora cominciano ad amarci un po' meno, e Ioanna si fa sentire, anche se dolcissima e bravissima. Però immaginate se al pianto di Ioanna aggiungessi il mio. Ioanna, e io, sarebbe un'amplificazione di dolore. Però come posso confortare Ioanna? Avvicinandola al petto, parlando in maniera sicura, tranquillizzandola e dicendo: Ioanna, passerà, stai tranquilla, papà c'è, è qui, battendo sulla spalla per cercare di far scendere il latte, cercare tutti i movimenti possibili, ma il conforto è questo, la consolazione è questo, e a questo noi siamo chiamati. Quando vediamo gli uni gli altri soffrire, non grogiolarci nel loro dolore, non empatizzare sì, ma cercare di sostenere, dire: guarda, ci sono e prego per te. Questi due termini, consolazione, conforto, si traducono nel prego per te. Prego per te. Questa è la migliore consolazione. Prego per te. Prego per il tuo dolore. Ci sono per la tua sofferenza. Non sei solo in questo travaglio. Ti ascolto, perché per pregare bene dobbiamo ascoltare molto bene. Ti ascolto, mi avvicino a quello che tu stai sperimentando, mi fermo, come diceva Mark, mi fermo a comprendere quello che tu stai vivendo, non ti passo oltre. E poi ci sono questi altri termini, che sono comunione di spirito, tenerezza di affetto, compassione. Ve li rileggo. Dopo consolazione e conforto c'è comunione di spirito, tenerezza di affetto e compassione. Se i primi due si traducono, permettetemi questa semplificazione, poi a casa potete studiare meglio questi termini e farvi uno studio più approfondito, però io cerco di semplificarlo anche per renderlo molto pratico. Se i primi due termini ci portano a dire prego per te, gli altri tre termini ci portano a dire prego con te. Comunione di spirito è prego con te. Comunione di spirito significa abbiamo lo stesso Spirito Santo che ci unisce in questa lotta e non prego solo per te, ma mi unisco alla tua battaglia e prego con te. Quanto è diverso pregare per una persona rispetto al pregare con una persona? Prendersi del tempo e dire ok, preghiamo insieme, entriamo insieme alla presenza di Dio. Io ricordo che in un tempo molto difficile della mia vita, a un certo punto non riuscivo a pregare da solo, lo raccontavo qualche giorno fa a un fratello, e non riuscivo neanche a digiunare, a prendermi del tempo per stare con il Signore. Quindi ho chiesto, lo ricordo ancora, a Leo Racanelli, che poverino si è immolato per la causa, ho detto Leo, io ho bisogno di pregare, non solo, ho bisogno anche di digiunare. E quindi poverino Leo ha detto va bene, ci sono, ma io vorrei anche digiunare, digiuno anch'io, e infatti per questo è che è magrolino Leo Racanelli, perché è disposto sempre a digiunare con chiunque ha bisogno di digiuno e preghiera, quindi andate da lui se avete bisogno di preghiera e digiuno. E abbiamo digiunato insieme e io non ho parole per esprimere quanto sia stato diverso quel tempo di preghiera, perché da solo io non riuscivo ad entrare alla presenza di Dio, non riuscivo a concentrarmi sul Signore. Ma con Leo, ascoltando le sue preghiere per me, e poi avendo io la forza di pregare, e avendo questo scambio di preghiera, lì c'è stato vera comunione di spirito, e lì si è sperimentata tenerezza di affetto e compassione. La compassione non si limita a vivere il sentimento empatico della sofferenza dell'altro, si cala e agisce. La compassione è azione, la compassione è ciò che ti porta ad agire perché senti il dolore dell'altro e non vuoi lasciarlo da solo. Terzo punto di questi versi riguarda l'unità. E l'amore crea unità. Scrivetelo, l'amore crea unità. Qui l'Apostolo Paolo sta pregando, sta incoraggiando i filippesi e lo troviamo in svariate lettere questo appello, lo troviamo anche nella preghiera più tra le più importanti di Gesù Cristo, la preghiera sacerdotale, dove c'è preghiera e appello all'unità. Però posso dire questo, perché quando poi si parla dell'unità tra i fratelli, tra le chiese, si pensa subito all'evento che crea unità. No, non è l'evento con il banner scritto unità tra credenti che crea unità. È una bellissima, non sto screditando queste occasioni, sono occasioni che dobbiamo vivere, che dobbiamo creare, ma non è ciò che crea l'unità. E soprattutto, diciamolo proprio papale fra i denti, il denunciare che siamo mancanti di unità non crea unità. Lamentarsi che la Chiesa è divisa non crea unità, l'accentua. E troppo spesso noi ci sentiamo che stiamo promuovendo un valido messaggio, facendo ipoteticamente eco alle parole dell'Apostolo Paolo, quando denunciamo che la Chiesa è divisa, quando denunciamo che le denominazioni ci separano, quando denunciamo che non c'è unità in intenti nelle missioni che portiamo avanti. Ma tutta questa denuncia, tutto questo parlare non crea unità. Sapete cosa crea unità? L'amore. L'amore. L'amore nella differenza. L'amore nei difetti, nelle mancanze. Voi non sapete che cosa si innesca nel mio stomaco quando io sento persone lamentarsi della Chiesa, perché so che è esattamente quello che il diavolo vuole che noi facciamo. E ci abbiamo tutti da lamentarci della Chiesa, di questo corpo imperfetto, questa famiglia imperfetta che è chiamata a questo tipo di amore che stiamo predicando questa mattina, ma non lo vive. Ma in me si crea qualcosa nello stomaco quando ci sono persone che denunciano tutti i difetti della Chiesa, tutte le mancanze, quello mi ha fatto questo e quest'altro che è successo lì, e quella Chiesa, e quel pastore, e io viaggiando e sentendo e ascoltando ne sono pieno e il mio stomaco soffre. Perché non è l'imperfezione della Chiesa che la divide, è la mancanza di amore che continua a dividerci. Nell'imperfezione. Quali sono i matrimoni perfetti? Quelli dove la moglie è perfetta e il marito è perfetto? Qualcuno dice amen, ma non è così. Non è così che funziona un matrimonio buono. Non è quando tua moglie stira, lava, cucina perfettamente, ti riverisce e serve e non ha nulla da dire ed è sintetica nella narrazione della sua giornata che l'amore funziona. E non è nel marito perfetto che è amorevole, torna con un mazzo di fiori a casa e cioccolatini e si ricorda dell'anniversario e porta a cena la moglie ed è romantico e rimane innamorato come lo era all'inizio, che la coppia è perfetta e funziona. No, il matrimonio funziona ed è perfetto quando nell'imperfezione c'è amore, quando nei difetti c'è grazia. Quando nel problema non si cerca di trovare la causa di chi ha portato quel problema, ma si cerca insieme la soluzione. È bellissimo, io e mia moglie, è bellissimo, quando cade un piatto, io a volte faccio cadere un piatto di proposito a casa, così per romperlo e vedere la reazione, vediamo, funziona il nostro amore, il nostro matrimonio, e butto un piatto per terra. E la reazione peggiore è: hai buttato a terra il piatto, la nostra serie preferita, che abbiamo preso all'IKEA e l'IKEA non ce l'ha più perché quella non crea amore. Ma quando quel piatto è caduto, si è rotto e mia moglie lo vede e con me lo raccoglie, è lì che c'è unità, è lì che l'amore si fa vero. Ed è lo stesso nella Chiesa. Questa Chiesa è imperfetta come ogni altra Chiesa. Ci saranno cose che ti piaceranno e cose che odierai, ma l'amore si modella nella tua vita proprio perché continui a farne parte e a coprire i difetti. E a questo l'Apostolo Paolo ci invita: un amore che crea unità, un amore che non è un evento, un amore che non, un'unità che non è denuncia, ma è una presa di posizione. Ora, che cos'è, qua concludiamo, l'antitesi all'amore e all'unità? Beh, l'Apostolo Paolo ci presenta due termini molto interessanti: spirito di parte e vanagloria. Spirito di parte. Vedete, in antitesi con quello che aveva descritto prima, comunione di spirito. Spirito di parte, io ho un sentimento diverso, io la penso diversamente da te e per questo creo divisione. Per questo mi separo. Lo spirito di parte è settarismo, è creare gruppi all'interno del gruppo. Spirito di parte è: io mi sento superiore a tutti gli altri e quindi marcio con chi è superiore con me o chi credo essere superiore come me. Questo è spirito di parte. Vanagloria, beh, è un termine che ho dovuto cercare nel vocabolario, ve lo voglio leggere. Questi sono due termini che denunciano un modo di fare che deve essere cancellato nella nostra vita. Vanagloria è l'immoderato desiderio di manifestare la propria superiorità e di ottenere le lode degli uomini. Oppure accentuato compiacimento di sé che, pur senza alcun fondamento di meriti effettivi, determina una smodata ambizione. Sapete cosa ho da dire in conclusione? Che ciò che il mondo ci presenta come successo, perché la vanagloria è il successo che ci viene presentato dal mondo, la parola di Dio denuncia come rovina per la nostra comunione, per la nostra appartenenza, per la nostra unità e per l'amore che noi dobbiamo perpetuare in immagine e in somiglianza di Cristo. La vanagloria è ciò che tutti ricercano. Cerca il bene per te stesso. Smettila di interessarti degli altri. Ora è il tuo turno. Ora ti devi prendere la tua parte. Questo è quello che il mondo ci dice. Sgomita, scavalca, vinci sugli altri. Gli altri sono nulla. Tu sei tutto e tutto attorno a te. Tu sei il centro. E questo non fa altro che elevarti in una posizione che ti dà l'apparenza di avere successo in questo mondo, ma ti smantella nell'animo e ti disconnette dagli altri e ti fa vivere nell'aridità più totale. Il Signore ci chiama ad amare, e per amare ed essere uniti dobbiamo vincere la vanagloria, dobbiamo lasciare lo spirito di parte, dobbiamo abbassarci in umiltà. E domenica prossima sentiremo parlare di questo e dell'esempio di Cristo di umiltà, e l'umiltà già ci viene presentata qui in questi versi come lo stimare gli altri superiori a noi stessi. questo è quello che il Signore ci invita attraverso questi versi. Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Forse in questa seconda parte del messaggio ti sei sentito incoraggiato a consolare e a portare conforto, o a vivere comunione di spirito, tenerezza di affetto e compassione per il prossimo. Forse in questa parte del messaggio ti sei sentito in dovere responsabile dell'unità della Chiesa, e forse c'è una scelta che devi fare, o forse devi ravvederti del peccato di vanagloria e di spirito di parte. Qualsiasi sia la tua decisione, non lasciare questo luogo senza aver deciso. Vogliamo pregare insieme affinché il Signore possa operare nei nostri cuori e elevarci a un gradino superiore nell'amore. Chiudiamo i nostri occhi, alziamo le nostre mani. Padre, ci arrendiamo a te. Come tanti neonati che non hanno forza in sé, ci abbandoniamo nel tuo abbraccio e ti chiediamo: vieni e metti in noi amore puro, il tuo amore, l'amore di grazia. Permettici di essere promotori di unità e non di divisione. Metti a morte la nostra carne nella vanagloria, nello spirito di parte. Permettici di cercare chiunque, ascoltare ognuno, amare ogni credente, ogni fratello, ogni sorella, ognuno che ci è prossimo. Nel nome di Gesù io prego che l'amore possa crescere e che tu possa trionfare nelle nostre vite. Alleluia. Amen. Rimaniamo in preghiera e in adorazione. Cantiamo ancora al Signore e fai le tue decisioni in preghiera ora mentre cantiamo.